Avvocati di Carlo Genta. Parti cross verso Pogba, la mette giù, prova il tiro, rete, rete, scavalcato da Donnarumma, Juve in vantaggio, Pogba, Pogba, Pogba. Pallone recuperato ancora da Higuain, in area di rigore, Higuain, Higuain, rete, Higuain, altro gran gol. Verticale verso Icardi, attenzione, posizione regolare, aggancia il pallone, tutto solo Icardi, rete, rete, tutto regolare, proprio lui Icardi, ancora in gol al quarto minuto, Inter in vantaggio. Ciao a tutti ragazzi, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione, e voi 800 24 0024, il numero verde, i signori dell'anello, degli anelli, Pogba, Higuain, magari Icardi. Proveremo a così a rompere questi anelli o il silenzio che ancora li circonda. Si muoveranno, si sposteranno, si incateneranno tra di loro, portando Pogba allo United, Higuain alla Juventus e magari la signora Vandanara a trattare con De Laurentiis. Questa non me la voglio perdere, dovesse succedere. 800 24 00 24, numero verde, poi come avete sentito in varie edizioni dei GR, ne parleremo se volete oggi e certamente nei prossimi giorni, d'atletica russa estromessa dai giochi per doping di Stato, dura le reazioni russe che ovviamente, come ovviamente non poteva essere. Adesso stiamo a vedere se ci sarà una spedizione russa in altri sport a Rio, dubito fortemente, aspettiamo la parola del TAS. 800 24 00 24, numero verde. Saluto e ringrazio Guido Vaciago per il primo di questi anelli. Guido Vaciago da Tutto Sport, ciao. Ciao e buongiorno a tutti. Allora, le notizie di oggi, caro Guido. C'è Raiola che ha twittato: non c'è nessun affare fatto per quanto riguarda Paul Pogba, solo un sacco di bla bla bla. Rima ispirata, baciata, lettera, testamento di Raiola. Sì, il problema è che molti di quei bla bla li ha fatti lui con il Manchester United, sì. Quindi direi che se l'affare non è fatto, si sta per fare. Sì, si sta per fare e c'è la notizia di un inserimento disperato del Real Madrid, cui io faccio un po' fatica a credere, perché a questo punto per un giocatore per quei soldi non ti inserisci all'ultimo momento in una trattativa che mi sembra ben avviata. Ho sentito dire che lo United avrebbe alzato l'offerta dai famosi cuccioli bianconeri, cioè 101, dalla carica dei 101 milioni in questo caso, fino a 110, ma si tratta sulla base di 120. E poi, Guido, c'è il grande nodo, cioè la commissione del signor professor dottor Mino Raiola, che sarebbe, correggimi se sbaglio, il 20% del prezzo di acquisto di Pogba. C'è un po' di mistero su quella commissione, però diciamo che non ci sbagliamo se la quantifichiamo in milioni, intorno ai 18-20 milioni da far avere a Mino Raiola, e quindi chi paga quei 18-20 milioni è poi alla fine il vero nodo della trattativa, perché la Juventus vorrebbe che se ne facesse carico il Manchester United, visto che è il Manchester United che ha usufruito dei servigi di Mino Raiola, in quanto la Juve non aveva intenzione di vendere, non è che aveva dato mandato a Raiola di cercare una squadra per Pogba, ma è il Manchester che, cercando Mino Raiola, strappa di fatto Pogba alla Juve. Il Manchester dice che la commissione spetta quantomeno al 50% le due squadre, vediamo a cosa si arriva. Io credo che, essendo solo quello il nodo, è difficile immaginare una soluzione diversa dal trasferimento di Pogba al Manchester United. Sarebbe la prima volta, in questo caso ancora una novità, un record, che una trattativa fallisce perché non si mettono d'accordo su chi paga la commissione. Beh, certo. No. Visti i soldi, vista la portata della trattativa, non credo che possa arenarsi sul quantum a Mino Raiola. 800 24 00 24, ma altra voce in questo senso è quella di José Mourinho, che sentiamo in inglese. It's been reported that Pogba is on his way to Man United. Do you confirm or do you deny? I don't confirm. And I I don't deny, I cannot tell you. Capito? Non confermo, non smentisco a proposito dell'arrivo di Pogba ai Red Devils. Mi par di capire invece che tu, Guido, lo dai come fatto. Sì, Moggi non avrebbe saputo dirlo meglio, sì. Perché era un suo must, non smentisco e non confermo. Sì, direi che io non darlo per fatto, no, perché non si fa mai nel mercato, perché appunto le sorprese possono sempre capitare, però io do davvero poche possibilità al fatto che Pogba rimanga alla Juventus. Io le riduco al 2-3%, proprio perché bisogna sempre tenersi una via d'uscita, le classiche varie ed eventuali, Guido. Sì, esatto, è proprio l'uscita di sicurezza, è proprio sì. Un pertugio dal quale, però, insomma, io credo che la situazione sia avviata, anche perché si sono verificate quelle due condizioni per le quali la Juventus aveva sempre detto che avrebbe ceduto Pogba. La prima era Pogba doverlo chiedere presentando un'offerta d'ingaggio che la Juve non poteva pareggiare. Certo. Ce l'abbiamo. Seconda, l'offerta doveva essere superiore ai 100 milioni di euro, ce l'abbiamo, basta. Non mi sembra che tutti i tasselli e tutte le tessere del domino vadano a combaciare. Guido, stai come un attimo, tra poco arriva un altro ospite, perché ho ancora un paio di domande per te. La prima, che non abbiamo evaso, è questo ipotetico interessamento, questa ipotetica intromissione tra gli sposi del terzo incomodo, cioè del Real Madrid. La seconda, che giro anche agli ascoltatori, allora, una Juve senza Pogba ma con Pjanic già preso da tempo, Piazza che è arrivato oggi a Torino e magari Higuain, siamo sicuri che sia più debole rispetto a quella con il polipo nel mezzo del centrocampo? 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. Convocati. Già l'ho detto prima, è un tradimento a se stesso, perché uno non va sotto la curva che rappresenta da sempre i colori e l'anima di una squadra, poi figuriamoci a Napoli, non va a intonare nemmeno la canzone dell'innamoramento e quindi sarebbe veramente un controsenso. Poi un controsenso tanto più che tutti sanno da sempre che Napoli e Juventus sono come cani e gatti. E quindi mi sembrerebbe veramente il re dell'assurdità, Higuain, se facesse una cosa del genere. A guidare il cantico dei cantici della tifoseria napoletana la scorsa stagione c'era ovviamente il pipite Higuain, e qui andremo dai soldi ai soldi con i sentimenti e con quello con cui ha giocato De Laurentiis. Saluto già Antonio Giordano del Corriere dello Sport, carissimo amico. Ciao Antonio. Saluto te e radioascoltatori. Ciao. Grazie per l'amico, mi onoro. Onore mio, come amico Guido Acciago, cui appunto avevo altre due domande da rivolgere. La prima è questa intromissione del terzo incomodo, il Real Madrid. Sì, scusami, e siamo amici anche io e Antonio, quindi è proprio una carambata. Una carambata. Ciao Guido, ciao. Ciao Antonio. Guarda, io l'inserimento del Real Madrid ci credo fino a un certo punto. Può darsi che il Real Madrid si sia informato, può darsi che il Real Madrid si sia, tra virgolette, prestato al gioco della Juve, perché fa sempre comodo nel momento in cui stai per chiudere con un'altra squadra che un'altra si inserisca e alimenti l'asta. Mi suona strano, cioè il Real Madrid aveva snobbato Pogba chiaramente nelle settimane scorse, che improvvisamente se ne sia innamorato soltanto perché lo sta chiudendo Mourinho è un po' strano pensarlo. Sì. Poi ripeto, ieri sera la notizia si è diffusa tardi, modo di verificarla in maniera super approfondita non c'è stato, abbiamo registrato questa voce che era comunque accreditata, credo che oggi ne sapremo qualcosa di più. Se il Real Madrid si è inserito, oggi perlomeno ci dovrà essere, se non un annuncio, perché queste cose non si annunciano, ma diciamo che nei corridoi del mercato dovrebbe circolare l'offerta. Certo, chiaro, del Real Madrid. Chiaro. Ultima domanda per Guido Vacciago, sarà anche la prima per Antonio Giordano, ma siamo sicuri che la Juventus senza Pogba e con, giustamente scrive qualche ascoltatore, 349-238-6666, Dani Alves, Benazia, perché avevo citato solo Pjanic e Plaza, che oggi è arrivato a Torino, più Higuain, ma siamo sicuri che sarebbe una Juventus più debole? Guido? No, assolutamente. Io credo che la cessione di Pogba sarà dolorosa, al di là di chi si era affezionato al personaggio, ma dal punto di vista tecnico sarà dolorosa per la Juve forse fra un paio di stagioni, quando Pogba raggiungerà la sua maturità, se la raggiungerà, e dimostrerà di essere quel campione che noi adesso abbiamo visto germogliare. Cioè, se mantiene le promesse, Pogba diventerà veramente il centrocampista più forte del mondo, però deve mantenerle e ci metterà del tempo, deve maturare. Quindi nei prossimi due anni, secondo me, può darsi che la Juve non è che abbia tutti sti rimpianti, magari vedrà qualche gol da fuori area, delle belle giocate, ma non sarà ancora quel giocatore determinante per la squadra. Come piacerebbe, come piacerebbe dire allo Tito, dare soldi adesso, vedere Cammello tra un po', quindi sono d'accordo. Se lo scambia appunto con Higuain, Higuain è pronto adesso, Higuain è nel pieno della maturità. Alcuni dicono Higuain è vecchio, ma non è vero, Higuain ha 28 anni e mezzo. In questo momento, in questo periodo storico, la vita dei calciatori è più lunga. Non stiamo parlando degli anni 70, quando uno a 29 anni era pensionabile, stiamo parlando di atleti che si sono mantenuti in un certo modo. Quindi io credo che Higuain abbia ancora 2-3 anni ad altissimo livello da subito, perché voglio dire, non è uno che deve crescere. Certo, questo è evidente. Grazie Guido. Grazie a voi. Grazie Antonio. Come la mettiamo? Come la mettiamo con il gioco dei sentimenti? De Laurentiis dice: ma come, guidava il coro sotto la curva e adesso va ai nemici storici e giurati? Voglio sentirlo, voglio vederlo questo. Quando il gioco si fa duro, comincia a giocare duramente. Comincia a giocare De Laurentiis. Si comincia a giocare anche duramente, anche sui sentimenti, con le emozioni d'affetto, appiccicando le corde del cuore, facendo appello a tutte le proprie risorse dialettiche, cercando di stimolare, anche magari di mettere in difficoltà, comunque con le spalle al muro, il centravanti, dimostrando che eventualmente, nel caso tutto ciò accadesse, accadrebbe soltanto perché c'è la volontà sua affinché ciò si consumi. Beh, senza la volontà di Higuain non si va da nessuna parte, però ci sono molti fattori che lasciano pensare come Higuain sia pronto ad andare via da Napoli, che riguardano il mancato rinnovo, ed è storia di qualche settimana fa, il mancato prolungamento del contratto annunciato dal fratello Nicolas, il fatto che Higuain si sia sempre lamentato della mancanza di rinforzi del Napoli, che io continuo a pensare sia al momento e così com'è nell'elite europea, nel GOAT europeo, certamente è un gradino sotto le grandi potenze, Juventus compresa. Sono un sacco di no in questo mercato incassati da De Laurentiis, quindi sai, diversi fattori che lasciano pensare come la volontà di Higuain possa collimare con quella degli acquirenti. C'è da dire una cosa: dal punto di vista dialettico Higuain non si è mai lamentato della consistenza del Napoli. La prima uscita è quella del fratello Nicola, 20 giorni fa, ed è anche sorprendente onestamente per la tempistica. Dal punto di vista aridamente tecnico, se vogliamo analizzarlo, è ancora il Napoli dell'anno scorso, quindi è ancora una squadra con 82 punti potenzialmente, con una forza offensiva di 106 reti, ribadita nel tempo, perché anche nelle due stagioni di Benitez questa squadra aveva prodotto tanto, no? Dal punto di vista offensivo, quindi aveva dimostrato di averne. Ed è una squadra che ha un po' allargato il suo orizzonte tecnico all'interno di se stesso, rinforzandosi con una panchina nella quale ora c'è Giaccherini, certo, credo sia un valore aggiunto. Sì, poi vediamo a destra chi arriva. Se... Sì, no, mi permetto di dire anche che Grassi è potenzialmente un giocatore da fare. Chiaro. E, un investimento economico di 9 milioni conta fino a un certo punto. Conta quello che il ragazzo ha dimostrato in precedenza e che può dimostrare in futuro. Io credo che dal punto di vista tecnico il Napoli sia ancora una realtà, come dici tu, una realtà seria del calcio europeo. Sì, ma ne sono convinto, ma dal punto di vista emotivo, Antonio, dal punto di vista emotivo, la partenza di Higuain, che cosa può produrre sulla squadra e sulla tifoseria, su chi sta intorno al Napoli, perché sappiamo bene come quello sia il termometro, no, certo, da tenere d'occhio. Noi non ragioniamo di pancia e non abbiamo il dovere di farlo. Se va via Higuain, il Napoli perde un valore assoluto, indiscutibile, forse il più forte centravanti al mondo o uno dei più forti. Poi a ognuno il suo, chi piace Suarez, a chi piace Lewandowski, ma insomma siamo lì nel godo, no? Lewandowski, a parte che Ancelotti ha detto Lewandowski non lo cedo per niente, per nulla al mondo, e ha ragione, ma Lewandowski, Lewandowski è un giocatore che... Cioè, lo stesso Real Madrid non riesce ad andare a prendere, è un giocatore... Quindi voglio dire, Higuain è quella forza lì, però, no? Siamo tra i più grandi, non credo di dire un'eresia, potenzialmente al mondo. Quindi il Napoli perde tanto. Il Napoli perde tanto dal punto di vista... Cioè, sai, Higuain nella scorsa stagione si era consolidato anche come leader di questa squadra, cosa che prima non era mai riuscito a fare nella sua carriera. Leader tecnico, ma anche emotivo, sì. In alcuni casi anche emotivo. Emozionale, sì, dal punto di vista ambientale, sì, perché le scene a cui faceva riferimento De Laurentiis, secondo me, mica casualmente poi, hanno rappresentato uno spaccato, uno spartiacque. Ma certo, ma De Laurentiis ha giocato la sua carta, cioè quella di mettere pressione sul giocatore. Ma come? Sei il nostro capopopolo, sei il nostro totem, sei... Se dico Masaniello e Siangelo... Masaniello, sei il nostro Masaniello, vai a cantare sotto la curva, e un'ora adesso all'improvviso... che cosa? Adesso all'improvviso vai alla Juventus? Come? Voglio dire, e quindi se l'hai giocata bene. Perdere i guai significa perdere tanto, però significa anche avere risorse economiche potenti, certo, prepotenti, per poter stabilire un progetto che ti dia grande continuità, che ti consenta di diventare egualmente forte, magari subendo un po' il contraccolpo dell'assenza di una potenza come Higuain, però andando ad investire su un mercato che ti può dare la possibilità di restare nel Gotha con un nuovo Higuain. Però il domandone è chi è il nuovo Higuain? Perché allora De Laurentiis ha detto che... Ma tu non sei amico mio, sei un amabile carogna. Io sono una carogna, non so quanto amabile. La Juventus deve pagare la clausola accessoria, perché Zaza e compagnia cantante non mi interessano. Quindi 97 96, quel numero lì che possiamo giocare all'otto. Li voglio tutti, uno sull'altro, possibilmente in contanti e in banconote di piccolo taglio. Poi ha detto che siamo stati secondi anche senza Higuain, e se dobbiamo sostituirlo Dio vede e provvede, mi sembra che si sopravvaluti un pochino. Poi ha detto anche delle altre cose De Laurentiis. Bisogna vedere come sostituire, in caso l'Arsenal o qualcun altro, il signor Higuain. Vedremo quando verrà. Dio vede e provvede, ma io sono tranquillo. Il Napoli è stato secondo anche senza Higuain. Eccolo qua, Dio vede e provvede, dicevo, si sopravvaluta un pochino. Quando forse dice l'Arsenal, però te, non le butta mai lì per caso. Quando dice l'Arsenal, credo che scenda una spia. Amico mio, però qui c'è un'altra storia che si può concatenare con quella del Napoli, perché parlavamo di tre signori dell'anello in questo momento, sono Pogba, Higuain e Maurito Icardi, ma soprattutto la signora Vandanara, perché mi sembra che sia lei la chiave del gioco. Hanno sempre comandato le donne, lo sappiamo. Beh, insomma, dipende. Mi pare che da Eva in poi sia andato. Sì, e qualche volta hanno anche fatto alcune di loro dei danni incalcolabili, come rischia di fare Vandanara, che Icardi, lo ricordiamo, ha adeguato con l'Inter l'anno scorso. Quest'anno, dopo una stagione non esattamente brillantissima, la signora Vandanara è andata all'Inter e ha detto vogliamo ancora più soldi, e ieri ha fatto questo famoso tweet da Londra. Poi c'è chi dice potrebbe il Napoli invece andare dalla signora Vandanara, e questa trattativa non me la vorrei perdere per niente al mondo. Mi raccomando, Antonio, tienici informati. No, ma Vandanara contro Laurenti, è bravo, ma meraviglioso, roba cinematografica. Vorrei, davvero. Vorrei avere la telecamerina. No, lo facciamo, qualcosa, lo facciamo, facciamo. No, scomodiamo potenti mezzi per una potente rete spionistica per questo incontro. Sì, qualcosa si fa, ragazzi. Qualcosa inventiamo, Antonio. Ma Icardi al Napoli è possibile? O è auspicabile? Allora, dato che dobbiamo sbilanciarci, Icardi è il centravanti che maggiormente intriga il Napoli. È il centravanti che piace a Sarri. Sì. È il centravanti che piace a De Laurentiis. È il centravanti che emozionalmente può, come dire, parare il contraccolpo psicologico, perché ha dentro di sé le caratteristiche del centravanti vero, ha una faccia da amabile scugnizzo, è argentino e fa niente se magari non è proprio amato da Maradona, e credo che tecnicamente, anche come dal punto di vista sia in grado di risolvere il problema eventualmente del gol che si aprirebbe. E comunque è in cima alla lista dei pensieri del Napoli. Non poi faccio fatica a dire che diventa, da qui a dire che diventi una trattativa è un'altra storia. Non faccio fatica a crederti, Antonio. Non faccio fatica a crederti, perché io non ti dico che anche il giocatore che più somiglia in potenza a Higuaín, però potrei. Molto si avvicina a lui, però. Molto si avvicina a lui. Grazie, Antonio. È sempre un piacere, grazie, sei un mio amico. Confermo. Un Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Ciao. Corriere dello Sport 800240024. Tino e Roberto, grazie per la presenza e la pazienza, perché adesso abbiamo la borsa, ma torniamo e parliamo subito dopo le informazioni dei mercati finanziari. 800240024 il numero verde. Ma io, figlio mio, sono eterosessuale, quindi che ne so per chi prende e chi non prende. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Ragazzi, già per tirarci su di morale, caso mai ne avessimo bisogno, sportivamente parlando, ecco che arriva la notizia per cui l'Under 19 di Vanoli, azzurra, agli europei di categoria, è in finale dopo aver battuto l'Inghilterra 2-1, doppietta di Di Marco, gol su rigore su punizione per il terzino di scuola Inter. Adesso si aspetta l'altra finalista, il nome dell'altra finalista che ricalcherà, guardate un po', la finale dell'ultimo europeo dei grandi, e cioè Francia-Portogallo. Tino, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Io volevo esprimere quello che penso e poi chiedevo a lei se sì, concordo o meno. Io credo che Marotta, Agnelli e tutta la staff della Juventus si sia resa conto che, avendo Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, una delle difese più forti del mondo, se non fa adesso l'assalto alla Champions, non può dire faccio fra un anno, faccio fra due, faccio fra tre, perché tanto sarà in fase calante. Quindi penso che Higuain quest'anno, adesso sia l'uomo che manca a questa squadra. Sì. E per fare ci vuole fortuna, ci vogliono gli arbitri giusti. L'assalto alla Champions, per l'assalto alla Champions ci sarà la Juventus, Pogba o non Pogba, Higuain o non Higuain, perché è una squadra attrezzata. È chiaro che dire do l'assalto alla Champions lo puoi fare a Torino, lo faranno a Monaco di Baviera che hanno Ancelotti, lo faranno a Manchester i soliti noti, lo faranno ancora a Parigi, lo faranno a Barcellona e a Madrid dove la detengono, Madrid tutte e due le sponde, quindi la Juventus si mette in questo plotone. Poi a me ha sempre fatto morire da ridere quando dicevano anche ai tempi del Milan, il nostro obiettivo è Champions League, in Champions League sbagli un tempo e vai a casa, sbagli un tempo, chiedere al Milan e perdi la finale. Quindi certamente la Juventus vuole essere competitiva in Champions League e sarà competitiva in Champions League a prescindere da questo ribaltone di mercato. Da lì a dire è l'obiettivo numero uno, secondo me nessuno deve, può permettersi di farlo, perché è uno sprint, puoi fare ovviamente l'obiettivo, non può che essere quello del campionato, di una maratona nella quale tutte queste squadre che ho citato sono in una posizione di enorme vantaggio rispetto alla concorrenza. Salvo l'Inghilterra, dove la concorrenza è un po' più frastagliata. Roberto, buongiorno. Buongiorno, io volevo esprimere un'opinione riguardo all'affare Pogba per la Juventus e quello legato anche a Higuain. La Juventus per quella cifra Pogba lo deve vendere, c'è poco da dire, anche perché ha già provveduto a occupare quella piazzola di campo con Pjanic e comunque giocatori come Khedira, poi rientrerà Marchisio, a centrocampo non mancano. La Juventus manca un attaccante che faccia tanti gol. Higuain a questo punto ha il profilo più alto, più elevato, il profilo internazionale. Poi in ottica Champions League, che concordo, è vero, non si può pensare solo in esclusiva alla Champions League, bisogna pensare, la Juventus ha l'obbligo di pensare campionato, Coppa Italia e Champions League tutti gli anni. Higuain manca, una lacuna, è l'uomo giusto, è l'uomo secondo me a cui può arrivare più facilmente, anche perché guardandoci intorno Lewandowski e Suarez non si possono prendere. Bravo, no, ma poi se lo immagina Higuain in coppia con Dybala, Higuain bravissimo, Mandzukic, grande stagione per lui, non c'è più Morata, è vero. Ragazzi, qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè di uno dei credo tre più forti centravanti del mondo, insieme a quelli che Roberto ha citato, quindi non credo che senza Pogba, e giustamente la Juventus si è cautelata a centrocampo, e non dimentichiamo l'arrivo di Piazza, oggi si è presentato a Torino ed è un grandissimo giocatore, l'età non potrà che migliorarlo, però mi sembra uno di piedi, di talento, un giocatore che è tra il centrocampo e l'attacco. Non ci sarà più Cuadrado, di cui tra l'altro si parla anche per il Milan, ma il Milan è, secondo me, una storia veramente strana e impossibile da leggere in questo momento. Però insomma, i giocatori che sono arrivati da Pjanic a Piazza e a Benazia e a Dani Alves, la Juventus è una squadra pienamente matura per iscriversi, per sedersi a pieno titolo, caro Conte, nel ristorante da 100 euro sborsando quanto serve. Daniele da Bari, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Chiedo lumi a lei, che la ritengo illuminato e illuminante. Soprattutto illuminato, che, sì. Le vorrei, su questa mia riflessione, vorrei che lei si pronunciasse, ma non crede che il solco creato oggi dalla Juventus nei confronti delle tutte le altre squadre, ma soprattutto del Napoli, che è la rivale più accreditata, sia dovuto proprio al, in passo in termine, provincialismo di una dirigenza come quella del Napoli, al cospetto di una, secondo me, statura un po' più europea di quella juventina? E le faccio un esempio: tutte queste interviste, conferenze stampa, parlando di un Higuain traditore, perché sarebbe andato sotto la curva a cantare, ma lo fanno tanti, lo ha fatto Vidal, lo ha fatto Pogba, lo ha fatto Pirlo, ma è il modo che De Laurentiis usa, Daniele, per mettere pressione su, per mettere un po' allo scoperto Higuain, come per dirgli: ok, tu eri il nostro, ne parlavamo prima con il collega, con Antonio Giordano, eri il nostro Masaniello, eri il nostro capopopolo, eri la nostra guida, il nostro guru, e adesso vai a casa del nemico. Ma è un modo per mettere pressione su Higuain, per quasi costringere Higuain a scoprire le sue carte. Arriverà tra il 24 e il 25, lo aspettano almeno per quel momento, per quella data, a meno che non prenda lo stesso aereo di Bielsa, e allora questa è un'altra storia. Però è chiaro che in questo modo De Laurentiis mette pressione su Higuain e prova a difendersi anche nei confronti dell'opinione pubblica. Poi il solco scavato è evidente, non è solo questione di provincialismo, come lo chiama lei, secondo me è proprio questione di diversi poteri economici. In questo momento la Juventus, ripeto, è allineata ai grandi club europei, anche dal punto di vista del budget. Tutti gli altri in tutti i campionati, togliamo l'Inghilterra che è un caso particolare, tutti gli altri stanno dietro e stanno a guardare, sperando di seguire le orme dell'Atletico Madrid di turno, altrimenti le superpotenze si mangiano le piccole. Ho usato un sacco di volte, abusato dell'immagine delle corazzate nello stagno, però mi sembra sempre di più così, no? Queste squadre che sono sedute al ristorante da 100 euro insieme alla Juventus nei rispettivi campionati lo sono, corazzate nello stagno. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. A Firenze che succede? Beh, diciamo che sono un po' più in provincia di Firenze, sono nel Val d'Arno fiorentino, e succede con paesano di Sarri, fra l'altro, però non ho notizie in diretta, per cui non, tutto quello che ci sarà da dire non riguarderà, diciamo, delle notizie che arrivano di sottobanco dal compaesano Sarri. Ma non è tifoso fiorentino lei, no? Io no, sono tifoso interista, e parto proprio da questo per fare complimenti alla Juventus, nella speranza che molti tifosi juventini smettano di pensare al santone Moggi e possano verificare come si possa riuscire a fare una grandissima squadra, come tutti quanti noi abbiamo pensato quando hanno fatto lo stadio nuovo, senza fare una serie di sotterfugi che sembra che solo loro possano continuare a vedere. Quindi complimenti credo alla Juventus, l'abbiano già capito, Marotta. Credo speriamo, l'abbiano già capito. Marotta, paratici, la Juventus è una società, lo ripeto, strutturata e organizzata intorno allo stadio, che mi piace pensare al fatto che quella sia la pietra su cui, mi piace pensare non per la Juventus, per una concezione moderna del calcio, è l'unica società strutturata in maniera moderna in Italia, quindi in maniera contemporanea, e non è un caso che alla fine dopo un lungo e faticoso e doloroso percorso di ricostruzione, costoso percorso di ricostruzione con un sacco di errori, è riuscita a costruire in questo momento la società che meglio funziona in Italia. Su questo non c'è dubbio, no Raffaello? Mi sembra che sia... Raffaello è il prossimo ascoltatore invece, la provincia di Modena. Buongiorno! A proposito, volevo sottolineare che, come mi diceva qualcuno, ma adesso Icardi va al Napoli e non lo chiami più tronista. No, Icardi è il tronista per eccellenza. Ciò non toglie che si sia dimostrato anche un eccellente centravanti, ma è il tronista per eccellenza. E come suggeriva in maniera molto lungimirante Giorgio De Luca prima, vogliamo innanzitutto già diciamo a De Laurentiis che proveremo in tutti i modi, con tutti i potenti mezzi e gli amici che abbiamo nelle TV soprattutto nei servizi segreti, proveremo a spiare da vicino l'eventuale incontro tra De Laurentiis e Vandanara, la quale diceva Giorgio De Luca non ci stupiremmo di vedere nel prossimo Cinepanettone. Hai visto mai con Christian De Sica e tutti gli attori preferiti da De Laurentiis? Dunque, quanto vuoi per Mauro Icardi? Tra l'altro, facendoci seri, uno dei nodi, grandi nodi che potrebbe incontrare questa trattativa eventuale, ipotetica, eccetera, eccetera, tra De Laurentiis e Guandanara riguarda i famosi diritti d'immagine. Come sappiamo, a Napoli è uno dei nodi più difficili da sciogliere, anche per giocatori di importanza assai minore. Ma Maurizio Icardi con i diritti d'immagine attualmente all'Inter guadagna 2 milioni e mezzo di euro a stagione, e quindi non si tratta di poca cosa, e non si tratterà di un affare di poco conto nel caso in cui la trattativa, Cinepanettone compreso, dovesse avere luogo. Traffico. Non mi fate diventare antipatico, perché io poi quando comincio a fare un professore mi fate diventare subito antipatico, cagacazzi e compagnia bella. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma scusami, io pago 40 milioni a un giocatore, 38 più 2 di bonus, eccetera, eccetera. Un giocatore che ha fatto 120 gol nel Real Madrid e che l'ultimo campionato del Real Madrid ha giocato 45 partite facendo 17 gol. Allora non ho capito, che faccio? Non mi proteggo? Cioè, noi facciamo il discorso, lì era in concorrenza, qui non è in concorrenza. Se lì ne fa 17, da noi ne farà di più, dopo mi romperanno le scatole tutti, allora uno mette un freno. Dunque, così De Laurentiis spiega a modo suo come nasce la clausola rescissoria ormai notissima di Gonzalo Higuain. C'è chi scrive: Higuain all'età di Icardi era molto meno forte, se Higuain vale quasi 90 milioni con la clausola di salvaguardia di Icardi vale il doppio. Beh, Francesco, doppio Icardi, cioè parlare di un Icardi che vale 180 milioni non si può dire ok, adesso il livello di Icardi all'età di Higuain è più elevato. Higuain comunque non dimentichiamo che arrivò al Real Madrid già come un predestinato, è indubbio che adesso sia nel culmine della sua carriera. No, ma io Icardi con Higuain, così non li scambierei mai. Potrebbe essere una valida idea, e pare sia una valida un'idea su cui il Napoli sta lavorando in caso di cessione di Higuain. Quello sì, possiamo dire che è un giocatore che ha la cazzimma giusta, che può fare breccia nel cuore dei napoletani, Vandanara compresa, però insomma tra lui e Higuain ce ne corre al momento. Raffaello, buongiorno. Buon pomeriggio. A tale proposito mi viene in mente una domanda che fecero anni fa a Batistuta quando era appena arrivato Ronaldo nel campionato. Gli chiesero cosa pensava e Batistuta giustamente disse: lui è Ronaldo da un paio d'anni, io sono Batistuta da 10 anni. Sì. Quindi magari è la risposta che potrebbe dare Higuain su Icardi. Insomma, poi Icardi è un eccellente giovane centravanti con una testa un po' ricamata, come dicono a Milano, con certamente dei colpi, con reduce da una stagione non brillantissima e con secondo me una consigliera non tanto lungimirante che è andata a battere cassa all'Inter. È vero che ci sono i nuovi proprietari, quindi magari ha detto: hai visto che sono arrivati i cinesi, vediamo se riusciamo a scucirgli un altro po' di soldi, però non mi sembra il tempo e il modo questo per così per chiedere un adeguamento del contratto. Poi sulla situazione kafkiana in qualche modo del mercato dei milanesi, poi torneremo, poi andremo, perché ci sono un sacco di punti interrogativi da risolvere, che riguardano l'Inter ma che riguardano anche soprattutto il Milan, perché ragazzi, ieri sono stati resi noti i nomi dei presunti compratori, però il Milan continua a navigare a vista con Bacca, un altro che potrebbe essere sull'agenda di Giuntoli e di De Laurentiis per il Napoli, che ormai è indirizzato verso l'Inghilterra, andrà al West Ham. In questo modo il Milan farà cassa e potrà arrivare a qualche giocatore magari più funzionale a Montella, tanto più che in questo momento l'unico centrale difensivo che ha il Milan, complici cessioni, infortuni eccetera, non c'è più Alex, non c'è più Maxess, si è fatto male anche Zapata e Romagnoli non lo possono clonare, almeno al momento. 800 24 00 24, numero verde. Umberto, buongiorno. Salve gente. Dica. Io vorrei intervenire sempre sul trasferimento, presunto trasferimento di Higuain alla Juventus, perché le dichiarazioni del presidente De Laurentiis mi lasciano proprio allibito, nel senso che se una squadra volesse davvero non cedere un giocatore, o non mette una clausola rescissoria, oppure la mette talmente alta fuori dal mondo, tipo 200-300 milioni. Perché la clausola rescissoria non è altro che fissare un prezzo a cui una società può vendere un giocatore. Sì, ma le faccio una domanda. Allora, clausola rescissoria, sappiamo come è nata questa relativa ad Higuain, De Laurentiis l'ha spiegata. Un anno fa, se fosse arrivato un signore con 95 milioni di euro in una valigetta, lei De Laurentiis l'avrebbe lasciato, fosse lei De Laurentiis, avrebbe lasciato partire Higuain? Io a quelle cifre lì io venderei qualsiasi giocatore. Allora stiamo dicendo. Ma il problema è che adesso De Laurentiis sta facendo la vittima praticamente di questa vicenda. In realtà lui è un protagonista, perché è stato lui a fissare questa clausola rescissoria. Sì. La Juventus ha preso atto di questo e non fa altro che una trattativa, perché se uno pone una quota 94,5, probabilmente potrebbe anche essere disposto a scendere a 90 o 85, come tutte le trattative. Adesso De Laurentiis si sta impuntando anche perché deve come dire, mantenere una certa faccia verso il suo pubblico, i suoi tifosi. Però beh, vedrà che si troverà. Umberto, trattativa, evidentemente ogni cosa a suo prezzo, lei dice. Esatto. Ci sono anche per Pogba, insomma, a 120, 125, quel che sarà sarà. Secondo me è un giocatore che non davanti a quei soldi non puoi non vendere Pogba, e anche l'idea, come si diceva prima, che potrà diventare il più forte centrocampista del mondo, quindi oltre ai lampi di talento cristallino, di classe, insomma, non stiamo a raccontare com'è Pogba. Vendi un giocatore, vendi un'idea, vendi la possibilità che sia che possa diventare più forte giocatore del mondo, centrocampista del mondo quantomeno, però ragazzi, 120-125 sono un sacco di soldi, e lo stesso vale per Higuain, perché insomma, se consideriamo che Higuain ha appunto 28 anni e mezzo, Pogba è molto più giovane, insomma, mi sembra che la quotazione grosso modo sia quella, e tutto ha un prezzo, quindi questo non mi sorprende, non mi stupisce e tantomeno mi scandalizza. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Balotelli al Napoli, scrive qualcuno. 800 24 00 24, per telefonare 349 238 6666, per messaggi e WhatsApp. Balotelli al Napoli, lui viene via con poco, poco. Faccio parte invece di quella schiera che pensa che Higuain assolutamente non verrà alla Juve, perché penso che spendere 94 milioni Marotta non li tirerà mai fuori, salvo diverse contropartite tecniche. Anche perché sarebbe un po' in antitesi con quella che è la politica della Juve di andare in cerca di giocatori di talento. Non si discute la classe di Higuain, però con 120 milioni penso che un Cavani o un Benzema con un André Gomes a centrocampo e eventualmente un Hamsik, per dire un nome, si possano spendere molto meglio che per un giocatore di 29 anni con un ginocchio così. Grazie, vi ascolto. Grazie a lei, Stefano. Io non sono tanto d'accordo. Cioè, Hamsik mi sembra un giocatore non voglio dire ormai sul viale del tramonto, ma reduce da stagioni comunque non brillantissime. È un giocatore anche diverso rispetto a Higuain. Non credo che la Juventus, che incasserà o incasserebbe, tempo che volete voi, 125 per Pogba, possa fare scelte di retroguardia in qualche maniera. Se parte una superstar, la Juventus pensa ad una superstar, e mi pare che la Juventus stia costruendo una squadra anche che sia pronta all'uso, matura da subito. Eventualmente i problemi di anagrafe si porranno, fatalmente si porranno, perché le carte d'identità, soprattutto di quella difesa, parlano chiaro, ed è arrivato Benazia. Dani Alves non è certamente un giocatore di primo pelo, anzi di secondo, di terzo, è un giocatore alla fine della carriera, o che si sta avvicinando alla fine della carriera, ma è pronto subito per essere protagonista. Stesso discorso si può fare per Evra, che è stato preso con un'operazione simile, preso dallo United. Poi la Juve, con un occhio al futuro, va a prendere anche Pjanic e va a prendere anche Piazza, e quindi in questo modo bilancia e contempera le due esigenze. Mi sembra che stia agendo in maniera sinceramente irreprensibile dal punto di vista del mercato. Matteo, poi ci fermiamo per il GR, dica. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo rispondere all'altro ascoltatore che si diceva che De Laurentiis faceva la vittima. Ma secondo me con 90 milioni di euro chiunque ci pensa, anche perché se guardiamo il campionato di adesso, con 90 milioni di euro la maggior parte delle squadre ci fanno interamente la squadra, sì. Quindi non vedo tutto questo problema se il Napoli cedesse Higuain, ecco. No, un problema si pone, Matteo, posso dire? Un problema si pone, che è proprio quello del sostituto. Non mi sembra ci possa essere in questo momento un giocatore che anche, sto parlando di soldi, di tecnica, di tattica e di emotività, che possa prendere il posto di Higuain, che possa aiutare eventualmente i napoletani ad ingoiare questo tipo di rospo. Si parla di Cardi, si parla di Milik, che però l'Ajax ha detto è incedibile, si può parlare di Bacca, ma non vedo, cioè il Napoli per intenderci non può andare a prendere né Benzema, che peraltro non è sul mercato, né Lewandowski, che peraltro non è sul mercato, blindatissimo e costosissimo. 800240024, GR, poi torniamo. Solo chiacchiere, solo un mare di ciacole, chiamiamole ciacole per essere educati. Tutti convocati. Convocati. Io penso che, come l'ho detto sempre, sono tre anni che sono qua, sono arrivato all'Inter per fare bene qua. Il primo anno siamo riusciti a entrare in Europa League, poi il secondo anno no, adesso siamo di nuovo lì e voglio dimostrare di fare bene con questa squadra, con questi colori, e poi essere il capitano di questa squadra sicuramente significa molto e rappresenta molto per la squadra. Allora, io sono uno che mi piace fare le cose bene, e poi quello che si dice, quello che si sente sul giornale, su tutte le parti, sono rumori, si dice, no? Però io sono contento qua e voglio fare bene qua. Questo era il signor Mauro Manda Icardi, che ha detto che vuole rimanere all'Inter, poi la sua signora sta parlando un po' in giro, ma questo cosa volete che sia? Sandro Sabatini, buongiorno, conduttore Calcio Mercato Premium. Come stai, Sandro? Tutto bene, voi come va? Un po' di lavoro, eh? Un po' di lavoro in questi giorni con i tre signori degli anelli, e vediamo se si incastrano questi tre anelli. Pogba da una parte, Higuain dall'altra e Icardi pure. Vediamo come se si incastra questo fil rouge. Tu cosa dici? Io vedo, faccio le previsioni. Io poi vedo, sembri Magotelma. Io vedo e prevedo Pogba al Manchester United, Higuain alla Juventus, e Icardi? Bacca al Napoli e Icardi che resta all'Inter. Io la vedo così. Tu la vedi così? Quindi Bacca, che peraltro non costa nemmeno uno sproposito, mi pare sui 25 milioni di euro valutato, sì, da un Milan impossibile da leggere, sarebbe un affare non costosissimo, però non so se è in grado di scaldare il cuore dei tifosi napoletani, come dicevo prima, di fargli ingoiare il rospone della eventuale partenza di Higuain. Ma quello dubito, però sapete com'è, i tifosi napoletani è come normale che sia, resistono anche con l'orgoglio. Allora, di fatto siamo in presenza comunque di un giocatore che vuole andare via, che ha deciso di andare via, né più né meno di Pogba, e Pogba lo fa esclusivamente per soldi e per quella rivincita un po' giovanile che ti porta a tornare nella squadra, nel punto della vita dove sei stato scartato, perché di fatto poi è successo questo. Certo. È la rivincita di Pogba unita da una vagonata di milioni. Per quanto riguarda Higuain, è la voglia di vincere, almeno questo lui dice, perché poi i soldi che gli darà la Juventus li avrebbe ottenuti anche dal Napoli, però è evidente che si è rotto qualcosa con De Laurentiis. Si è capito dal silenzio di Gonzalo Higuain, ma si è capito anche dalle parole di De Laurentiis ieri. Certo. Perché comunque anche quando usi il condizionale, ma pur con la punteggiato dal condizionale, tu usi parole tipo tradimento, traditore, eccetera, significa che sei consapevole di un rapporto che si è incrinato. Ecco, sì, oppure cerchi di spostare la pressione sulle spalle della controparte, dicendo quelle cose, allora vuol dire che ok, vuoi andare, però devi essere tu a venire qui e a dirlo, e quindi questo è quanto, credo sia una manovra strategica anche nei confronti della tifoseria. Ma mi spieghi, Sandro, perché la signora Icardi o la signora Vandanara va in giro a parlare di qua e di là? Tu dici che Icardi rimarrà all'Inter. Ma guarda, io non mi permetto poi di dare giudizi umani sulla signora Vandanara, sulla signora Icardi. Vandanara, sì. Signora Icardi, insomma, però perché non, assolutamente no. Solo che il mestiere di procuratore non si improvvisa, ecco, questo è poco ma sicuro. Esatto. Va detto che comunque evidentemente qualche promessa sulla parola l'hanno fatta l'anno scorso, quando c'è stato il rinnovo del contratto di Icardi. Va detto che poi le persone deputate a parlare e a promettere l'anno scorso non ci sono di fatto più, perché la promessa arrivava dal direttore generale Fassone, che adesso non c'è più, è cambiata anche la proprietà, è cambiata dunque anche la società. Però una cosa è sicura, lei si sta esponendo troppo, sta facendo troppo una trattativa social, dopo certo. aver fatto un divorzio social, un matrimonio social. È una donna molto social, diciamoci la verità. No, dicevo prima che non mi stupirei di vederla nel prossimo cinepanettone, perché De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto anche questa, la scrittura della signora Vandanara con Christian De Sica e compagnia. Gli è dato una buona idea, anche perché la frase involontariamente più ironica e più divertente che ha detto Vandanara quando ha parlato a Tele Lombardia qualche decina di giorni fa, ha detto: sapete, anch'io voglio guadagnare i miei soldi perché sono stufa di fare la casalinga. Ah, chiaro, stufa di pulire i pavimenti, sì, di cucinare, certo. E non pulisce il water, come dicevo, quella famosa pubblicità, non ce la vedo proprio la signora Vandanara a fare le faccende di casa. Capisco invece che voglia in qualche modo valorizzare la sua professionalità da soubrette, vabbè, lasciamo stare. Senti, sul fronte, no, Milano è più che mai nebbiosa, anche se è pieno luglio e fa un caldo da morire, è più che mai nebbiosa sul fronte calcistico, perché all'Inter c'è questa screpolatura, no, tra Mancini e la nuova proprietà, che andrà chiarita e vediamo che succede da quel punto di vista. Ci sono obiettivi di mercato che si fa fatica a raggiungere, ci sono questi nuovi, cioè la nuova proprietà cinese che ha messo dei limiti ben precisi, non graditi a Mancini, insomma la situazione la conosciamo ed è tutt'altro che chiaro quello che potrà succedere all'Inter dopo il ritorno dall'altra parte del mondo. Tutt'altro che chiaro, sì. Poi tu come la vedi? Vedi e prevedi qui cosa? Ah, io non vedo né prevedo qui, perché qui mi sembra davvero difficile la situazione. Poi sai, dobbiamo, che ne so Carlo, che Radio 24, Sandro, vi fai un collegamento verso le 3? Sì, va bene, basta un WhatsApp, un SMS. Abbiamo anche lo stesso, oltre che la stessa lingua, abbiamo anche lo stesso fuso orario. È il problema di chi invece sta lavorando negli Stati Uniti con una proprietà cinese, quindi con un 12 ore di fuso orario minimo di differenza, e senza potersi scambiare messaggi se non attraverso altre persone. Come fai a lavorare così? Come fai a sveltire qualsiasi decisione così? Come fai anche a instaurare un rapporto, un feeling di fiducia, di assistenza reciproca, di squadra? Ecco, questa è la situazione nella quale sta lavorando Roberto Mancini, che ha tanti difetti, per carità, però che si sente un uomo solo e nemmeno più al comando, io lo capisco. Sì, questa sensazione c'è. Ma quindi tu sei possibilista a proposito di un divorzio tra Mancini e l'Inter? Guarda, io credo che siano determinanti le persone che stanno affiancando di fatto il nuovo proprietario Suning sul mercato. Mi risulta che siano dei procuratori che non hanno nulla a che fare con il mondo Inter, ma hanno tanto a che fare con il mondo del mercato internazionale, globale. Sono Kia Jorachan, che è diventato famoso perché è stato il procuratore di Tevez, e un altro che si chiama Pini Zahavi, che ha tante ramificazioni, diciamo così, nel mercato. Mi risulta che Suning si sia affidato a loro. Ecco, di conseguenza sono loro che stanno trattando anche la situazione Mancini, io penso con una freddezza ed eventualmente con un cinismo che di sicuro sono sconosciuti a noi, tantomeno noi che siamo abituati all'Inter che sublimava, diciamo così, la gestione patriarcale della società con la figura di Moratti. Altro mondo, dalla terra alla luna nel giro di 3 anni, questo è evidente, ma anche Mancini nonostante la tanta esperienza, nonostante abbia viaggiato per il mondo, abbia fatto questa professione in Inghilterra come in Turchia con alterne fortune, non è abituato a questo, credo, a questo tipo di situazione, che peraltro non è chiarissima, così come molto meno chiara, e non ti chiedo neanche il vedo e prevedo sulla situazione Milan, perché anche quella mi sembra quasi kafkiana, no? O da deserto dei tartari, vediamo se i tartari arrivano davvero. Su Mancini ti aggiungo soltanto una cosa, che questo Kiab Jorapchan, che è l'ex procuratore di Tevez, non ha buoni rapporti con Mancini dai tempi del Manchester City, quando vi ricordate tra Mancini e Tevez non finì a malo modo, ma insomma neanche con baci e abbracci. Per quanto riguarda il Milan, il titolo di oggi della Gazzetta, di questo signor Bu, nella Gazzetta ha scritto Bukum compra, che sembrava tanto un Bukum pra, e mi è sembrato un filo ironico, quasi fino a sconfinare nell'irriverenza. Però poi si va a leggere, ci si documenta, si guarda su internet e si scoprono tante cose che non erano chiare. Innanzitutto la valutazione adesso all'improvviso diventa 500 milioni per il 100%, è praticamente la metà di quello che c'è stato filtrato, raccontato. E poi c'è 250 di debiti che andrebbero coperti, sì, che farebbero, sì, si aggiungerebbero a quei 500, no? Sì, e poi niente, cioè i tifosi del Milan sono pronti ad esultare. Io tifosi del Milan invito soltanto a riflettere su un piccolo particolare, proprio dalle classiche statistiche della denuncia dei redditi. Cioè questo V che va a comprare che andrebbe a comprare il Milan non è tra i primi 400 uomini più ricchi della Cina. Tanto per dare un'idea, il Suning, che è tra i primi 10 uomini più ricchi della Cina, che ha preso l'Inter, ha comunque un patrimonio inferiore a Berlusconi. Cioè non vorrei che i miei tifosi, nella smania di supportare un cambiamento che è comunque nell'ordine delle cose, nell'ordine della storia, l'evoluzione naturale, la storia di Berlusconi e del Milan, non stiano appoggiando anche la classica situazione per cui si va a finire dalla padella nella brace, anche se poi la padella ne riguarda il Milan, riguarda soltanto gli ultimissimi anni questo è evidente, però il mercato attuale sta dimostrando come bambole non c'è una lira, no? Perché si aspetta di vendere Bacca per poi eventualmente prendere un altro centrale, Musacchio, chi per esso, visto che il Milan in questo momento ne ha sprovvisti, cioè siamo alla adesso non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, ma siamo alla conta delle monetine. Sì, e poi anche perché finora ci viene detto, stiamo anche noi raccontando quello che ci viene detto, appena esce Bacca poi entrano Musacchio, un centrocampista, e Pavoletti. Vabbè, complimenti, perché con 30 milioni di Bacca tu compri Musacchio, Pavoletti e un centrocampista, però prendi 3 giocatori da 10 milioni, non è che ne prendi 3 da 30. Ecco. Chiaro. Questo è evidente, quindi non è il caso di essere ottimisti, poi ci sono un sacco di situazioni intricate, come ad esempio quella della Lazio, come ad esempio anche una Fiorentina che prova a muoversi. Come avevo previsto, ma no, questo era un vedo e prevedo facilissimo, Sandro, questo si sta rivelando probabilmente il mercato più ricco della storia. Ma perché? Perché i grandi club, quelli che hanno davvero denaro da spendere, hanno per la maggior parte cambiato allenatori, salvo Real e Barcellona, e quando cambi l'allenatore, che tu sia il City, sia il Bayern, sia il Chelsea, sia il Paris Saint-Germain, tendenzialmente ti muovi, e se si muovono questi, i soldi che girano sono una valanga. È anche, È anche vero però che dopo che si sono mossi tutti questi grandi squadre, i big, insomma, quelli con più soldi, poi puoi avere delle buone occasioni di mercato, perché insomma, leggo, il Manchester City, lo United di Mourinho compra Pogba dopo aver comprato Ibrahimovic e Mkhitaryan, beh, ci sono tre titolari dell'anno scorso che tanto contenti non sono e magari quando, dopo Ferragosto chiedono di essere ceduti e quindi le società italiane potrebbero anche intervenire. Fare lo stesso anche per il City, anche per il Chelsea, perché Conte sta comprando molto, ma non ha ancora venduto nessuno. No, aspetta, poi c'è Guardiola che sta lavorando con 40 giocatori, una roba da football americano, ingestibile e impraticabile. Sandro, prima di salutarti, lasciami essere malizioso. Hai citato Mkhitaryan, Ibrahimovic, procuratore di entrambi è Mino Raiola, procuratore di Pogba è il suddetto. Che ci sia qualcosa in questo quadro? Ma sì, è evidente che Mino Raiola ha messo le mani sul Manchester United. Ed è, sai, poi quando ti vai a consegnare con tre giocatori così a Mino Raiola, al di là dei soldi che lui può guadagnare, che poi i soldi non è che va a fare le rapine con la calzamaglia in testa, se li guadagna glieli danno. Ma certo. Quindi glieli danno. Certo. Quindi io sui soldi non sono per niente invidioso. Ma io non sono neanche moralista, No, io dico, sposti però un presidente, il dirigente, anche l'allenatore del Manchester United, un pochino mi preoccuperei di avere tre giocatori che dipendono in maniera così netta, evidente, e da un unico procuratore con la personalità di Mino Raiola, perché questo è il giorno che dicono il Manchester United siamo noi, e basta. Dico che dico la verità, ma ci vanno molto vicino. Ma anche perché poi soprattutto Mourinho è abituato a dipendere da un altro procuratore che gli costruisce le squadre, che si chiama Jorge Mendes. E quindi che abbia cambiato casacca, che abbia cambiato bandiera, lo scopriremo. Lo scopriremo insieme. Grazie Sandro, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio. Calcio Mercato Premium, Sandro Sabatini, e torno con piacere agli ascoltatori 800 24 00 24, prima di fare un giro al Tour de France, dove ieri abbiamo visto se possibile allungare ancora di più le mani sulla corsa gialla. Intanto notizie di mercato che riguarda non l'Italia ma la Germania. Mario Götze, l'ombre del Mundial per i tedeschi, torna al Borussia di Dortmund, quindi lascia il Bayern Monaco e torna da dove era venuto, e cioè al Borussia Dortmund, dopo una stagione così cos'ha. Nuccio, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, un saluto a lei e un saluto a Pardo, la ringrazio. Grazie, Pardo è in vacanza, lo salutiamo da lontano con non poca invidia, ma tornerà. Le dica di mangiare meno spaghetti, che si deve presentare bene in futuro. Fin lì non ci arrivo, con il mio potere su Pardo non arriva a quei limiti, a quei confini. Comunque le do una notizia, io opterei, sono tifoso juventino, per la punta Bacca. Cosa ne pensa lei? Alla Juve? Certo. Io penso che dovendo scegliere tra Bacca e Higuain mi prendo Higuain tutta la vita, cioè se voglio fare il salto di qualità. Bacca è un bravo giocatore che ha anche caratteristiche diverse rispetto a comunque al giocatore con cui la Juventus è abituata a giocare, che sia Mandzukic o al limite Morata. Non lo vedo così bene, così come non vedo quel ruolo nemmeno adatto ad uno come Cavani, di cui si è parlato, che però è reduce da alcune stagioni così cos'ha, per usare l'espressione, per riciclare l'espressione di poco fa, e è chiaro che quel ruolo insomma è quello di Gonzalo Higuain, che prima, se un ascoltatore parlava, rimbrottato da altri ascoltatori via SMS, parlava di un ginocchio non perfetto di Higuain. In realtà Higuain, anche dal punto di vista fisico, complice la famosa dieta dei frutti di mare o chissà che altro, ha giocato una stagione anche da un punto di vista fisico, Coppa America salvo la finale comprese, ad un livello spaventoso. Cioè è il giocatore perfetto per farti fare, per aggiungere veramente qualcosa, con tutto il rispetto per Mario Mandzukic, che ha giocato un'eccellente stagione, è il giocatore perfetto per incrementare ulteriormente il tuo potenziale offensivo. Onestamente ce n'è tantissime di coppie di attaccanti in giro per l'Europa, per il mondo, immediatamente pensando a Messi e Suarez, immediatamente pensando a Cristiano Ronaldo e Benzema, però non ce ne sono tantissime di coppie offensive come possono essere, come potrebbero essere Higuain e Dybala. Sandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiama da Genova, Genoa, Sampdoria o qualcos'altro? No, Juventino. Ah, simpatizzante doriano e comunque sono contento per il mercato di Ferrero. E, no, volevo far notare una cosa, che l'incasso dei 125 della Juve su Pogba in realtà sarebbe, se esiste veramente la clausola per Pogba, sarebbe solo di 100 e non di 120-125. Quindi non è l'incasso più, cioè sì, la vendita sarebbe la più alta di sempre, ma incasserebbe uno standard giusto per prendere Higuain, in teoria. Beh, si sta trattando, oggi il rilancio è a 110, la prima offerta è stata quella della carica dei 101, no? Magari sfruttando, giocando sui colori della Juventus, hanno detto, ma dai, come il film, la carica dei 101, 101 milioni. Si è respinta al mittente, si è arrivati a 110 oggi e l'obiettivo è quello dei 120, e per 120 io credo che la Juventus lascerà partire il suo talentone. Quindi non, poi avanzando, Higuain clausola pagata 95, vabbè che stiamo ragionando di un sacco di soldi e quindi possono sembrare bruscolini, è vero che c'è da pagare una elevatissima provvigione a Mino Raiola, il 20% grosso modo della cifra di vendita, però insomma mi sembra che il prezzo sia giusto su tutti i fronti, il prezzo sarebbe giusto su tutti i fronti. Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io sono tifoso del Napoli, napoletano, eccetera. Noi napoletani, perlomeno chiacchiere da bar, non siamo molto entusiasti per quanto riguarda Icardi, e vorremmo vedere un grande gabbiadino, perché sì. Sarri onestamente non, cioè lui ha un gioco, il gioco di Sarri è particolare, e quindi non so se Icardi è disposto al sacrificio a fare quello che faceva. Ma quindi mi interpreti l'umore della tifoseria napoletana. Tifiamo gabbiadini tutta la vita. Ah, gabbiadini però con l'aggiunta di Icardi. Con l'aggiunta di Icardi e gabbiadini sareste disposti a veder partire Higuain senza, insomma, senza piangere più di tanto, o piangendo il giusto? Allora, secondo me a questo punto è meglio che se ne va Higuain, perché onestamente abbiamo sofferto Lavezzi, Cavani, Higuain, più o meno possiamo paragonarlo a quelli, quindi non ci siamo abituati. Quello che noi speriamo, visto che Gabbiadini ha sostituito egregiamente anche quando è mancato Higuain, sì. Magari non c'ha tutti i 90 minuti ad alto livello Gabbiadini. Questo può essere un problema, Questo può essere un problema per la Champions, è un problema. Però se onestamente potrebbe essere una stagione per lui importante, per Gabbiadini. E poi sì, magari un altro attaccante. Io con i soldi di Higuain comprerei anche un difensore, perché non dimentichiamoci che la difesa del Napoli non è proprio la più forte d'Italia. Sì, cosa quindi, che Napoli sta anche provando a fare, che De Laurentiis ha detto, difensore, centrocampista, e su questo sta lavorando Napoli, che ha ricevuto anche dei niet, diversi niet nel corso di queste prime battute del mercato. È chiaro che se entrano in cassa quei soldi, prima cosa devi pensare a sostituire il Masaniello, Higuain. Poi è chiaro che devi andare sugli altri obiettivi che comunque hai già in agenda. Intanto c'è Luigi e poi andiamo al tour. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie mille, allora, Luigi. Due considerazioni e una domanda, se possibile. La prima, certo, su Conte. Ieri mi trovavo al ritiro del Chelsea in Austria. E secondo me ce l'avrà un po' dura all'inizio, perché conoscendolo lui, da ex juventino, insomma, da juventino che sono, molto maniacale, molto pignolo, con la lingua non è ancora al 100%, diciamo così, imparato, come si dice da queste parti. Sì. Aspetta, posso dirti una cosa? Posso darti una notizia così di cronaca? Sì. Perché sì, c'è la Spagna che ha un nuovo CT, Julien Lopetegui, che era il commissario tecnico dell'Under 21, campione d'Europa, quindi promosso al gradino superiore, sarà lui il CT dopo del Bosque. Prego, Luigi. Al posto della mummia del Bosque, ok. Sei ingeneroso. O Maurizio Costanzo, come l'ho visto, insomma, parodiato, vabbè, da qualche parte. No, ripeto, secondo me il Conte avrà adesso un po' di difficoltà, perché io lo vedevo ieri, era molto arrabbiato che non riusciva a spiegarsi, nonostante collaboratore e tutto quanto. Però vabbè, questa è una considerazione mia, e gli faccio bocca al lupo, perché insomma è un onore per l'Italia avere così tanti allenatori in Inghilterra. Certo. La seconda su Pogba, la Juve già dalla prima dell'Europeo secondo me sapeva che sarebbe andato via, ha disdetto casa, eccetera, eccetera, e non per niente ha già speso tutti questi soldi, che non è poco, insomma, conoscendo Marotta e Paratici, che sono molto braccini, già avevano sentore. La terza è una domanda: come giocherà la Juve con questo Piazza, che non lo conosco molto bene, e se c'è o ci sarà mai un contatto per riprendersi Morata, magari a, che ne so, 40-50, piuttosto che spendere 95 per Higuain, non credo. Che è un fenomeno, però sono sempre 95 milioni. Lo so, sono sempre, linea. Sì, Luigi, ti ringrazio. Sono sempre 95, non sono pochi, ma Higuain è Higuain. Cioè, in questo momento sta sul podio mondiale degli attaccanti. È chiaro che Morata lo conosci, sai quello che ti può dare. Non credo che la Juventus tornerà con i soldi in bocca a trattare per il Real Madrid, con il Real Madrid per Morata. Credo che quel capitolo sia chiuso. Credo invece, ripeto quello che ho detto prima, che una coppia offensiva come Higuain Dybala sia di assoluto livello mondiale. Quindi credo il salto di qualità possa essere proprio quello, e forse esclusivamente quello, perché di altri attaccanti di quel livello sul mercato raggiungibili non ce ne sono. Si è detto di Lewandowski, si è detto di Benzema, ma mi sembra che l'unica superstar disponibile sia proprio Gonzalo Higuain. Tour de France, ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora, ieri abbiamo visto definitivamente Chris Froome mettere le mani sul Tour, dopo che, insomma, nel finale è andato a scrollarsi di dosso i Quintana e gli ultimi che lo inseguono in classifica. È andato ad agganciare Porte, è arrivato con lui apparentemente senza grande sforzo. No, in realtà gli sforzi hanno dovuto fare parecchio, come tutti. Stanno andando fortissimo in questo Tour de France, certo i valori e i livelli sono molto alti e le differenze sono minime. Quest'anno noi assistiamo a un Froome che non è un frullino, ma è un roditore. Rode 10 secondi, 8 secondi, 15 secondi, oggi ne ruberà altri, però ormai il suo margine sta diventando incolmabile, soprattutto non mostra segni di cedimento. Non mostra segni, diciamo, di supremazia assoluta e devastante, però... ma forse anche perché non ne ha bisogno, considerata la concorrenza. Quintana deludente... Esatto. Quintana è l'uomo che non c'è, cioè lui proprio non c'è in questo Tour ed è il vero sconfitto di questa edizione. Il resto della compagnia sono degli ottimi corridori che stanno facendo o esperienze, stanno cercando di trovare un'altra dimensione, ma al momento nessuno è all'altezza di Froome, che non è il solo, perché alla fine Froome un paio di corridori se li è portati nella propria squadra, che potevano essere dei pericoli, quindi ha sistemato ogni cosa. E lui ha una squadra veramente, per usare un linguaggio calcistico da Champions League, è nettamente la più forte. Sì, no? Sì, certo, è il Manchester United di Mourinho o il Barcellona, cioè fior di campioni che controllano. Infatti tutti ti dicono è un Tour noioso, è vero, il risultato finale è tutto qui, non sta succedendo niente. La verità vera è che anche ieri, la tappa di ieri, più di 4.000 metri di dislivello, 185 chilometri, la media finale è stata di superiore ai 40 km orari. Spaventosa. C'è una roba pazzesca. Sì, sì. Le prime due ore le hanno fatte quasi a 52 all'ora. Quindi tu arrivi all'ultima salita, che è una house category, e sono tutti stravolti, compreso Froome, che però è meno stravolto degli altri, e quindi si danno questi gli 8 secondi chiaro. Quindi uno dice, ma come mai non c'è spettacolo? Non c'è spettacolo perché c'è una squadra devastante. C'è una squadra horse category che gli altri non hanno, e dentro questa squadra horse category oggi c'è onestamente più forte corridore del mondo, corse a tappe, nome Chris, cognome Froome. Sentiamo domani Piero Augusto, grazie. Ciao Carlo. Ciao a domani con il Tour de France, ma anche con tutti i convocati. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, a Visa Falsoni in redazione. Grazie, domani dopo l'Europa alle 2 qualcosa siamo qui per voi. Arrivederci ragazzi, ciao.